come si fa? Carbone, nome. Un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo di vacanze per chi ha figli, un tempo dove ogni giorno succede qualcosa di nuovo, un periodo dell'anno che senza gli appuntamenti fissi della scuola i figli devono trovare cose da fare, appassionarsi a qualcosa per non finire travolti dalla noia, oppure come spesso succede ai nativi digitali, per non vivere giorno e notte davanti ad uno schermo. Chi ha figli adolescenti che ora sono in vacanza sa però che la loro adolescenza non va in vacanza, o meglio, tutte le sfide evolutive che normalmente sono in gioco durante l'anno, in estate diventano più intense e cariche di aspettative, richieste, bisogni e desideri. Allora 800 24 00 24, mano alla cornetta, chiamateci se siete genitori di figli adolescenti, magari che quest'anno faranno la loro prima vacanza da soli, o diteci come vi state organizzando, che cosa è per voi sfidante, anche per chi ha figli ormai già grandi, ma si ricorda ancora molto bene le preoccupazioni di quegli anni. Allora, stiamo mettendo tutti un po' la testa sulle nostre prossime vacanze. Ne approfitto, Nicoletta, per ricordare che domani ci occuperemo anche di coloro che hanno prenotato le vacanze per la Grecia. Sono un po' preoccupati per capire se potranno usare la moneta elettronica di pagamento, portarsi un sacco di contante. Non rinunciate a questa vacanza, anche se c'è questa turbolenza finanziaria. Comunque domani ne parleremo di questo. Parliamo oggi in termini di vacanze per quegli italiani che non ci vogliono rinunciare, anche se in tantissimi devono fare i conti con il portafoglio. Ma non solo, molte famiglie devono fare i conti con una serie di problemi organizzativi che non sono comuni a tutti. Oggi nella parte dei denari vogliamo andare in vacanza con le famiglie monogenitoriali o monoparentali, quelle famiglie cioè composte da figli seguiti e cresciuti da un unico genitore. C'è un'associazione che li rappresenta, si chiama Small Families, cioè piccole famiglie per la precisazione, loro amano definirsi famiglie in trasformazione. La conosceremo questa realtà e metteremo a fuoco quelle piccole grandi criticità pratiche, logistiche, economiche che in particolar modo durante il periodo della vacanza vengono fuori, cercando come sempre di individuare anche delle soluzioni efficaci per le famiglie di questo tipo all'ascolto. Se anche voi vi trovate a portare avanti una famiglia monogenitoriale o ce n'è una che vi sta particolarmente a cuore, che vi è particolarmente cara, iniziate a prenotare i vostri interventi anche per questo tema all'800 24 00 24. Ti comunico ufficialmente che io quest'estate bacerò e penso che potrei spingermi anche molto oltre. Ma molto molto, eh? Si chiama Adelmo, è di Orbetello e si occupa di pulire le piscine. Accidenti, quante ne ha? Una sera incontrò un ragazzo gentile. Le piscine degli altri, lo fa di lavoro. Lei ballerà tra le stelle accese. Benvenuta, mitica estate del mio primo bacio. Eh sì, è proprio così, gli adolescenti sono in vacanza, ma la loro adolescenza non si ferma mai, non si mette mai a riposo e spinge noi genitori, soprattutto in estate, ad un surplus di fatica educativa, attenzione e ansie che presumo molti di voi staranno sperimentando e cercando di tenere a bada. Oggi parliamo proprio di questo, la fatica dei genitori di adolescenti quando arriva l'estate, una fatica bella, piena di speranza naturalmente, ma comunque di fatica si tratta. Qual è la vostra se siete genitori, oppure qual è stata la sfida evolutiva più impegnativa che i vostri genitori hanno dovuto affrontare quando eravate voi ragazzi e quindi per causa vostra? Parliamo di questo oggi perché proprio oggi è in uscita con il Sole 24 Ore l'ottavo volume della collana Guida alla Salute in collaborazione con la Fondazione Veronesi, dedicata all'adolescenza, definita nel titolo Età ingrata. Ma è davvero così? Lo scopriremo oggi con voi, con le vostre storie, le vostre telefonate, ma anche con gli ospiti che sono in linea con noi e che andiamo subito a presentare. Diamo il buongiorno ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore in igiene e sanità pubblica. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Alberto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. E in linea con noi abbiamo il professor Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria. Professore, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti voi. Uno psicoterapeuta e un pediatra al nostro e al vostro naturalmente servizio, perché l'adolescenza è in realtà una fase dove cambiano tante cose, sia nel corpo che nella mente dei nostri ragazzi. Professor Corsello, lei che è pediatra, ci aiuti a capire come l'adolescenza rivoluziona l'organismo dei nostri figli? Sì, in realtà è il periodo di trasformazione più intenso che ci troviamo a vivere, perché è un periodo in cui un bambino deve prepararsi a diventare adulto ed è un periodo lungo che va globalmente, mediamente considerato dai 9-10 anni fino ai 17-18 anni, in cui avvengono una serie di trasformazioni a livello del corpo e poi anche contestualmente e contemporaneamente a livello psicologico. Il corpo cresce in statura, cambia le proporzioni e la composizione delle sue parti, si avvia la maturazione sessuale, quindi cambiamenti decisivi per il destino di questi soggetti che vanno attentamente controllati. Ecco, la prima cosa che credo bisogna dire alle famiglie è che è un periodo in cui, siccome ci sono questi cambiamenti, è necessario attivare un percorso di sorveglianza per cogliere eventuali problemi che possano sorgere, che se non vengono tempestivamente individuati possono poi dare dei problemi a distanza, quindi non sottovalutare dal controllo dei genitali, l'eventuale presenza di irregolarità mestruali, controllare se insorgono delle infezioni che possono essere correlate anche con l'inizio dell'attività sessuale, valutare un po' l'impatto delle sostanze che durante l'adolescenza i ragazzi cominciano ad assumere, e quindi l'alcol, le sostanze alcoliche, il fumo, cioè tutte queste condizioni professor Corsello, vanno gestite. Certo, professor Corsello, vogliamo chiedere ai genitori all'ascolto qual è la cifra, che cosa è cambiato nel loro figlio, se ci sono ragazzi che hanno sicuramente una trasformazione più evidente a livello fisico, altri invece che magari rimangono ancora un po' minutini, piccolini, e invece cambiano proprio come approccio, diventano molto più riflessivi, sono più profondi. Alberto, quali sono gli aspetti cruciali che connotano le trasformazioni psicologiche in adolescenza? Ma fondamentalmente la mente segue il corpo, cioè il ragazzo si rende conto che non ha più il corpo del bambino e non è più un bambino, quindi il suo progetto questa volta è tutto proiettato in avanti, vuole dismettere il codice protettivo che la mamma e il papà hanno usato sempre con lui quando era bambino e vuole molto più diventare un esploratore della vita e del mondo, andare in giro, si prende un po' in mano, prende in mano il suo corpo, prende in mano il suo progetto di vita, comincia a farsi delle grosse domande, e il problema è che però nella sua mente è fortemente attivato quella parte del cervello che va alla ricerca di sensazioni, emozioni forti, eccitazioni, voglia proprio un po' anche di entrare in situazioni di rischio, mentre non è ancora arrivato a maturazione la parte del cervello più riflessiva, più cognitiva, quella che può in qualche modo innescare meccanismi di autoprotezione. Ecco perché a volte i nostri figli fanno dei grandi pasticci, seguono la loro voglia di eccitazione, di divertimento, di piacere, e non si rendono conto invece degli eventuali rischi che ai quali potrebbero andare incontro. Insomma, sono grandi ma sono ancora piccoli, come diciamo spesso noi mamme. Siete d'accordo? Sì, direi che per loro è proprio quello un po' il tema, no? Vorrebbero fare tutto, si sentono un po' onnipotenti, ma in realtà hanno ancora bisogno di un grandissimo presidio, di tanta attenzione, di molto accompagnamento e sostegno da parte degli adulti di riferimento. Questo genera un forte conflitto, perché le mamme e i papà tendono un po' a mettere dei limiti, loro si ribellano a questi limiti, e a volte gli adulti, nel tentativo di essere comunque sempre molto amati dai loro figli, non riescono a essere le mamme e il papà che invece quei figli hanno ancora tanto bisogno. Estate, tempo di conflitti, e in quale conflitto vi state misurando a casa vostra con i vostri figli, con le loro richieste di indipendenza? Si devono coniugare un po' le esigenze di riposo dei ragazzi che hanno finito la scuola, ma nello stesso tempo i ragazzi diventano esploratori. Insomma, è un problema anche di guinzaglio, lungo o corto, se di guinzaglio si vuole parlare. 800 24 00 24, diteci di che cosa state discutendo in famiglia. Ma professor Corsello, lei ha parlato di trasformazioni del corpo. Quanti e quali problemi dà il corpo a chi diventa adolescente, no? Che si trasforma. Ma in effetti spesso si legge sempre di più da tutte le parti di quante battaglie i ragazzi fanno con e sul proprio corpo nel momento in cui entrano in adolescenza. Come Società Italiana di Pediatria vi siete occupati di questo? Ce ne siamo occupati molto, anche per affrontare alcuni problemi che gli adolescenti hanno. Mi riferisco alle percentuali di adolescenti in sovrappeso, in obesità, che come lei sa in Italia sono circa il 35% del totale degli adolescenti, quindi un numero molto alto. E proprio questo è un esempio calzante di come l'adolescente a un certo punto non accetta più quella sua caratteristica corporea che fino a che era bambino aveva accettato, perché intervengono delle esigenze di omologazione al gruppo, a quelli che sono gli standard dell'adolescente o del giovane perfetto, snello, atletico, e quindi comincia un pericoloso meccanismo di rifiuto del proprio assetto corporeo, che a volte può diventare un disturbo del comportamento alimentare, che è una problematica tipica dell'adolescenza, almeno a come cui noi anticipiamo, oggi facciamo gli anticipi, sì. Di quelli che saranno i temi che tratteremo da Expo. Vogliamo proprio dedicare un approfondimento ai disturbi alimentari che sono frequenti in adolescenza, nell'età giovanili, ma che colpiscono anche le persone adulte. Quindi questo significa, professor Corsello, che dobbiamo seguire, senza essere troppo invadenti, i nostri figli in questa età di passaggio, che è un'età molto fragile. Vanno accompagnati, perché è come una corsa a ostacoli l'adolescenza, quindi magari bisogna gradualmente e con consapevolezza e con partecipazione bisogna aiutarli a superare questi ostacoli che si pongono nel corso della loro trasformazione da bambini verso adulti. Alberto, l'adolescenza c'è sempre stata, ma probabilmente negli ultimi anni il tema del corpo è diventato molto più prevalente e pressante di quanto succedesse alle generazioni passate. Ne parla il libro L'età ingrata della Fondazione Veronesi, in distribuzione oggi col Sole 24 Ore, ma ne parli anche tu nel tuo libro Tutto troppo presto, che in particolare si sofferma sul tema del corpo femminile. Sì, io direi che forse come genitori ci stiamo proprio rendendo conto che le nostre figlie sono davvero sotto assedio in termini di immagini, suggestioni, messaggi che ricevono dal contesto socioculturale in cui si muovono. Cioè hanno davvero la pressione forte ad avere un corpo un po' come quello che è ultra rappresentato nei media, ma che in realtà è un corpo davvero difficile da detenere e da avere e portare in giro nella vita reale. Ci sono studi che dicono che il 95% dei corpi femminili che vengono mostrati nei media appartengono solo al 5% delle donne che vivono invece nel mondo reale, nella vita reale, il che significa che il 95% delle donne vere e reali, quando guardano il corpo femminile ultra rappresentato nei media, si sentono fuori dai canoni, fuori dagli standard che decretano successo e popolarità. E questo nelle nostre figlie, proprio in un momento della vita in cui si stanno domandando cosa vuol dire riuscire a farcela nella vita, avere uno status, avere un'identità, spesso genera molta confusione. Abbiamo parlato e stiamo parlando di adolescenze in generale, ma adesso collegherei il tema dell'adolescenza, come anticipato, alla stagione che stiamo vivendo. Professor Corsello, in estate i nostri adolescenti sono più a rischio di vivere problemi, di avere problemi specifici, penso alla sessualità, alle prime esperienze sessuali, quindi al consumo e all'abuso di alcol. Al professore. Sì, sono più a rischio. Sì. Sono a più rischio perché in estate si tendono a favorire e anche a tollerare spesso degli stili di vita un po' meno consoni alla tradizione del periodo scolastico, del periodo invernale. Quindi è un momento in cui possono concentrarsi dei comportamenti causa anche di problemi a distanza. Mi riferisco appunto a una certa assuefazione, a un uso più continuativo di sostanze, bevande alcoliche, una maggiore esposizione al fumo, c'è una minore tendenza a garantire le necessarie ore di sonno notturno, quindi un'alterazione di quelli che sono i bioritmi quotidiani, e spesso si assumono anche delle abitudini alimentari un po' meno garantite sul piano della qualità degli alimenti, si tende a mangiare male, a mangiare più spesso, ad assumere bevande anche zuccherate, quindi è un periodo in cui bisogna sicuramente aumentare il livello di attenzione da parte della famiglia e da parte dello stesso adolescente, dico da parte della famiglia perché spesso questi stessi un po' squilibri vengono condivisi anche degli adulti, quindi noi dobbiamo fare un'operazione a più vasto raggio per informare ed educare tutta la famiglia a garantire degli stili di vita salutari anche nel periodo estivo. La promozione dell'attività fisica e motoria è importante sempre, è importante anche nel periodo sicuramente estivo, nel periodo delle ferie, evitare una eccessiva esposizione a internet, ai media, è importante sempre. Ma proprio ai media voi avete dedicato una bella indagine L'indagine ha registrato, no, delle novità importanti. La prima è che si è conclusa la migrazione dal computer allo smartphone e la seconda è rappresentata proprio dal boom di nuovi social. E a questo proposito la vostra indagine rileva che il ragazzo che frequenta più di 3 social sarebbe potenzialmente più a rischio del suo compagno che ne frequenta uno solo. Ci spiega? Sì, questo è un dato che questa caratteristica, perché adesso sì, ci saranno tutti i genitori che si interrogano quanti social ha il profilo, sì, l'account. È un dato che ci sorprende fino a un certo punto, perché i media, i nuovi strumenti tecnologici sono assolutamente importanti, non vanno demonizzati, fanno parte della vita quotidiana di tutti noi, però il fatto che si frequentino più di 3 social network è legato ed è una spia di una sorta di dipendenza dal fenomeno, cioè innesca un meccanismo di condizionamento psicologico che poi è la porta che apre eventuali problemi di cyberbullismo, problemi anche di devianza comportamentale. Quindi il numero dei social network è collegato direttamente con il tempo di esposizione ai social network e alla possibilità di dipendere, di incontrare virtualmente delle persone che possono innescare dei meccanismi pericolosi a rischio. Quindi è un dato su che bisogna comunicare alle famiglie ma anche agli stessi adolescenti, perché certo, il lavoro qui consta essenzialmente di una prevenzione, cioè bisogna informare e prevenire prima che questo possa essere collegato con un problema che si è già concretizzato di devianza o di cyberbullismo. Allora, io vorrei anche un po' tratteggiare un profilo di questi adolescenti che non sono poi, no, così sbandati, perché a descriverli così, sempre davanti allo smartphone, sempre sui social, che bevono, fumano, hanno dei comportamenti sessuali a rischio, uno dice, oh mamma mia, mamma, ma chi ho allevato a casa? Stiamo allevando, ecco, esatto, Alberto. Insomma, il titolo della collana del volume di oggi è Adolescenza, età ingrata. In realtà più che ingrata è un'età un pochino complessa, sfidante direi. Direi che poi è un'età, in realtà è un vero e proprio germoglio, è la gemma della vita e del futuro che un ragazzo comincia proprio anche a coltivare, a gestire in autonomia senza far fare tutto alla mamma e al papà. Per cui è un'età pienissima di speranza, pienissima di potenzialità. Io mi accorgo anche come genitore che in questo dilemma ci sono dentro tantissimo, perché a volte davvero, no, crescendo dei figli in adolescenza si viene proprio da dire mamma mia, ma che cosa sono? D'altro canto ci sono proprio dei passaggi invece in cui loro davvero si stupiscono, si rendono orgogliosi di essere il loro genitore, li vedi proprio spinti da forti ideali, capaci di fare delle azioni che noi non avremmo mai immaginato. E spesso come adulti il rischio è proprio quello di avere una focalizzazione molto forte solo sulle loro zone negative quando si mettono a rischio o fanno qualcosa che non va bene, e non sottolineare invece in modo molto importante tutte quelle zone in cui li vediamo funzionare molto bene. Quindi proprio come quando dobbiamo dire stai attento, fai attenzione o ti devo punire perché hai fatto una cosa che va molto male, è molto importante anche dire sono molto orgoglioso di te, mi hai colpito perché hai fatto delle cose davvero speciali. Ecco, ed è quello che proprio vorrei fare con i genitori all'ascolto. 800 24 00 24, osserviamo insieme i nostri ragazzi, luci e ombre. Un messaggio di un nostro ascoltatore, non si firma, magari è un'ascoltatrice. Io a mio figlio dico sempre, ci sono cose che tu capisci benissimo quando te le spiego, ci sono poi altre cose per le quali non ti chiedo di capirmi al momento, ma di fidarti. Capirai molto in seguito e a quel punto mi giudicherai. 800 24 00 24, abbiamo anche in linea Maria Chiara, che invitiamo a sentire con i mercati. Spero di poter dare buone notizie e ritorniamo dopo insieme. A tra poco. Cuore e denari. Io sono un amante fallito, non mi telefoni mai, io sono un marito deluso, combino solo guai, e quando ritorno alla sera mio figlio chiede di te, io faccio finta di niente e stacco il telefono e dopo butto la pasta e resto a guardare mio figlio che ride davanti al televisore, poi faccio la mamma e lo metto a dormire. Sa che domani non sia un sogno migliore. E oggi in Italia si stima che siano oltre 4 milioni le famiglie in cui il genitore è uno solo. Separazioni, convivenze finite, fuga del partner, vedovanza. I motivi possono essere tanti per ritrovarsi in questa condizione. Quello che resta è una situazione in cui l'adulto spesso si trova solo a gestire molte criticità, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche per quello che riguarda gli aspetti pratici, economici. E le vacanze sono un'occasione in cui queste difficoltà possono farsi sentire un po' di più che in altri momenti. Ne parleremo oggi nella seconda parte della trasmissione, in realtà in un filo conduttore unico rispetto, certo, alla prima, per la pagina appunto di denari. 800 24 00 24, iniziate a raccontarci se conoscete una di queste situazioni da vicino o se la vivete proprio in prima persona. Vogliamo come sempre trovare delle soluzioni, consigli, qualche risposta, e non a caso c'è un'associazione nata proprio per dedicarsi a questi nuclei familiari e alle loro esigenze. La fondatrice sarà nostra ospite. Al mare, in montagna, ma anche nella propria città, nell'attesa che i genitori possano andare in vacanza. Che cosa sta succedendo nelle vostre vacanze? Che cosa state negoziando? Vostro figlio andrà in vacanza con gli amici oppure è riuscito a strapparvi il permesso di tornare dopo mezzanotte? Siamo a Cuore Denari e quindi Deborah potremmo anche chiedere come vi state organizzando per la paghetta. In estate, esatto, le uscite aumentano e quindi qua bisogna stringere. C'è qualche premio, magari legato anche alla conclusione dell'anno scolastico, chissà. E se vostro figlio invece deve riparare qualche materia a settembre, lo avete messo un po' a stecchetto oppure in qualche modo cercate di fargli comunque passare una vacanza come tutte le altre, naturalmente mettendolo nelle condizioni di riparare la materia? 800 24 00 24, vogliamo dedicare questa seconda parte di Cuore Denari proprio al confronto e quindi vi invitiamo a comporre il nostro numero verde e a raccontarci come e perché vi state organizzando, quali scelte, quali sfide educative state affrontando. Abbiamo bisogno anche dei vostri suggerimenti. Chi è passato può dare sicuramente qualche consiglio, anche se dalle esperienze altrui si impara sempre poco, ahimè. Maria Chiara, buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno a voi. Ci dica, Maria Chiara. Allora, volevo in quest'ambito di consigli più che altro sì? dare la mia esperienza quando mi sono trovata a dover da genitore single affrontare il tema delle vacanze con una figlia adolescente e un figlio già più grande che non veniva per il primo anno in vacanza con noi. Ho ceduto mio malgrado alla richiesta della figlia che chiedeva di fare una vacanza in crociera e ne sono rimasta assolutamente invece entusiasta, perché era il giusto mix fra libertà dell'adolescente che però viveva comunque in un ambiente ristretto, protetto, controllato, protetto, i tempi che si passavano invece insieme a fare delle attività anche piacevoli, di viaggio, di scoperta, di escursioni, di visite di altre città. Quindi è un'esperienza questa che non è un avrei mix mai... E l'ha ripetuta Maria Chiara? Sì, 2 anni consecutivi, fino a che poi non ha cominciato ad andare da sola, però insomma ci è venuta lei volentieri, diciamo in 14-15 anni li ha... Ecco, perché ha detto volentieri, è che è quello che fa la differenza, Maria Chiara. Sì, sì, no, l'ha chiesto lei, perché... io l'ho assecondata, non avrei mai fatto una vacanza in crociera, confesso, per scelta, e invece mi è sembrata è andata bene. Un'idea assolutamente... soddisfacente Vincente. Per entrambe, ecco. Grazie Maria Chiara. Alberto, in crociera con l'adolescente, libero ma protetto. Esatto, al di là della, proprio dell'esperienza che ognuno poi trova la sua, la, secondo me il racconto di Maria Chiara è molto bello perché unisce proprio le due dimensioni, protezione ed esplorazione, che sono quelle intorno alle quali noi dobbiamo trovare il giusto mix, che permette ai nostri figli di poter diventare davvero, no, esplorazioni, esploratori nella vita e nel mondo, ma allo stesso tempo farlo con modalità che poi non si rivelino autolesive o troppo rischiose. Certo, andiamo a un'altra telefonata, 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a Napoli, dove ci aspetta Tina in questo caso, qua tutte mamme stamattina, al momento. Ci fa molto piacere, Tina, buongiorno. Buongiorno, salve a voi e grazie per l'opportunità di questa trasmissione, perché è bellissima e la seguivo. Io sono mamma, ma sono soprattutto operatrice come relazioni di aiuto, sono una counselor, io quindi mi permetto di dare un suggerimento a chi ci ascolta. Grazie, dicevo, ci fa piacere. Buongiorno. Dicevo, i ragazzi, almeno quelli che io incontro nei punti di ascolto, hanno bisogno di ascolto, ascolto, ascolto. Purtroppo i genitori... diciamo, hanno trasformato l'ascolto col sentire. L'ascolto è tutt'altra cosa, significa ascoltare, avere tempo di ascoltare e andare incontro alla problematica del ragazzo. Io penso che se solo si sapesse ascoltare, molti problemi tra genitori e figli verrebbero risolti. Grazie, grazie a Tina, quindi ascoltiamo i nostri genitori. Il periodo delle vacanze potrebbe essere quello anche giusto, un periodo giusto per fermarci un po' con i nostri figli, ascoltarli. Professor Corsello, come pediatra, sì, come pediatra lei ascolta le mamme quando vengono in ambulatorio, immagino, più che i ragazzini, ma... Beh, non solo, in realtà il pediatra è il medico sia del bambino e dell'adolescente che anche della mamma, della famiglia e anche del papà e della famiglia, che certo. deve creare questa rete, che deve essere una rete virtuosa in cui ciascuno fa un lavoro utile per la crescita e lo sviluppo di questo bambino. Però c'è una cosa che si collega a quello che diceva in questo momento l'ascoltatrice, cioè il valore dell'ascolto. Il ruolo dei genitori di un bambino è diverso rispetto a quello dei genitori di un adolescente, quindi anche i genitori devono essere accompagnati a cambiare il loro modo di seguire il bambino, ma non con l'assenza o con la passività o con la paura, bisogna loro spiegare che è importante condividere l'esperienza dell'adolescente, condividere quelle positive, condividere quelle che sono a rischio senza naturalmente opprimerli, ma proprio per aiutarli a superare. Questo è un ruolo importante che il pediatra può sicuramente favorire nella interazione tra i genitori e l'adolescente. Alberto, voglia di libertà, di fare le vacanze da solo, richieste un pochino, no, un po' fuori dalla norma, questo dipende anche dall'età del ragazzo, e anche cambia se il ragazzo è primogenito, secondogenito, certo, terzogenito, perché poi la famiglia, no, si abitua anche a prendere le misure con la voglia di libertà dei propri figli. Alberto, come concretamente, come si possono aiutare? Alla richiesta di un ragazzo per il primo anno di fare le vacanze con, da solo, senza genitori, ma con i propri amici, compagni di liceo, una vacanza di una settimana, 10 giorni? Ma in generale l'idea che io do sempre ai genitori è questo, considerato che noi siamo genitori e tutori legali fino alla loro maggiore età sempre e comunque, io a mio figlio di 14 anni devo concedere quest'anno una libertà che io presumo e prevedo che lui sia in grado di gestire, ma allo stesso tempo che mi lasci spazio poi l'anno prossimo, fra 2 anni e fra 3 anni, di poter negoziare ancora uno spazio di libertà che io gli metto a disposizione. Faccio un esempio: se una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 14 anni si è innamorato e dice io da quest'anno non vengo più in vacanza con voi, vado in vacanza con mio fidanzato o fidanzato, e ha 14 anni, ecco, e un genitore dice sì, va bene, vai, parti, non ha più niente da negoziare negli anni successivi, e cioè ha già concesso un pacchetto completo, certo, a un'età in realtà molto precoce, e da quel momento in poi non ci sarà più uno spazio in cui continuare a fare le mamme e papà sulla negoziazione intorno a dove vado in vacanza, che è un po' la stessa cosa se un figlio di 14 anni chiede a una mamma o un papà io voglio tornare al sabato sera a casa alle 4 di notte, È davvero tanta roba, come dicono loro. Non, come dicono loro, non bisogna saltare le tappe. Io in chiusura vorrei salutare per un minuto Rosanna Schiralli, direttore scientifico del primo Festival Nazionale dell'Educazione, che è iniziato il 26 giugno e che durerà fino al 5 luglio a Viterbo, al Palazzo dei Papi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, durerà fino al 5, è una bella maratona, ma molto interessante e in qualche modo anche divertente, di condivisione con gli educatori, i genitori, i docenti. Affronteremo le tematiche principali che riguardano proprio il rapporto, la relazione educativa tra bambini e genitori, ma anche insegnanti e adolescenti e gli adulti di riferimento. Grazie, grazie alla dottoressa Schiralli, direttore scientifico del primo Festival Nazionale dell'Educazione, ricordiamo a Viterbo dal 26 giugno al 5 luglio al Palazzo dei Papi. Vi ricordo Età Ingrata, con il volume della Fondazione Veronesi, a cura della Fondazione Veronesi, in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Ringrazio il professor Corsello per essere stato con noi, il nostro Alberto Pellai, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. E tutto il resto non vale se sei in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite. E allora, la vacanza è un momento certamente importante perché si vuole bene, ci fa trascorrere del tempo di qualità con le persone più importanti, ma al tempo stesso può far emergere alcune mancanze, difficoltà, fatiche, anche semplicemente alcune esigenze particolari. Oggi nella parte di denari, ma proprio in una continuità diretta con la prima parte di cuore, vogliamo andare in vacanza con le famiglie monogenitoriali o monoparentali, cioè quelle famiglie composte da figli seguiti e cresciuti da un unico genitore. C'è un'associazione che le rappresenta, queste famiglie, si chiama Small Families, cioè piccole famiglie, per la precisione loro amano chiamarsi famiglie in trasformazione. Oggi in Italia si stima che siano circa 4 milioni e sono già famiglie che nella maggior parte dei casi vivono situazioni complesse emotivamente parlando, perché parliamo di genitori single con figli a carico che sono diventati tali in seguito a separazioni, convivenze finite, fuga del partner, nei casi naturalmente ancora più seri, vedovanza. Anche dal punto di vista economico e pratico le difficoltà si moltiplicano a dismisura, perché questi nuclei familiari spesso e volentieri non hanno punti d'appoggio, punti di riferimento e sostegno, e si trovano a gestire la quotidianità facendo davvero i salti mortali. E il momento della vacanza diventa poi uno dei momenti dell'anno più critici e delicati. Chissà se ci conferma tutto questo la presidente fondatrice dell'associazione Small Families, Gisella Bassanini, che si è fatta una bella scarpinata per raggiungerci qua negli studi di Expo. Benvenuta. Benvenuta. Grazie, grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qui in una trasmissione seguitissima, ma so, e grazie anche dell'accoglienza che mi avete dato. Grazie Presidente. Allora, tra l'altro proprio la settimana scorsa avete presentato a Milano Small Holidays, vacanze in famiglia a geometria variabile, un libro di cui io qua abbiamo la una bella copia che ci ha portato Gisella Bassanini in regalo, un libro con 29 racconti più uno sui giorni più caldi dell'anno, scritti da persone comuni e note dai 60 agli 80 anni. Ma Presidente Bassanini, prima di affrontare il momento vacanza, di raccontare il contenuto di questo libro, spieghiamo perché e come, quando ha fondato questa associazione. E lei, tra l'altro, è mamma di una figlia adolescente, mi sbaglio? Sì, sì, io sono un genitore unico, cioè appartengo a quella piccola categoria dentro a quello che noi abbiamo chiamato le small family o famiglia geometriche. 4 milioni di famiglie, sì, cominciano ad avere. Però comprendono, come avete detto prima voi, diverse tipologie familiari, cioè dentro alla definizione di famiglia monogenitoriale sono comprese esperienze familiari molto diverse, che noi preferiamo chiamare small families. Io appartengo, diciamo, a una tipologia sicuramente minoritaria, che è quella di una madre che si è trovata sola a crescere la propria figlia, ed è il motivo per cui ho sempre avuto questo sogno, cioè di realizzare appena possibile un progetto che poi è diventato poco più di un anno fa un'associazione con sede a Milano, proprio a sostegno dei genitori che si trovano soli o completamente soli, come nel mio caso, oppure a seguito di una separazione, a convivere principalmente con i propri figli, potendo a volte contare per una buona parte a ciò accade sulla presenza dell'altro genitore, e invece in molti anche altri casi l'altro genitore non c'è più. Ma che cosa le mancava, Presidente? Perché l'esigenza proprio concreta di formare, di dar vita a questa associazione? Ma uno dei desideri maggiore, che poi è confermato anche dai contatti che noi abbiamo quotidianamente attraverso le mail, insomma, dalle madri e dai padri, grazie a Dio sempre più numerosi, che ci contattano anche come associazione, è il contrasto alla solitudine. La vera difficoltà è la fatica a crescere da soli o da sole dei figli, sentirsi diversi, tutta la responsabilità sulle spalle, avere tutta la responsabilità, che per molte di noi è anche economica, quindi certo, siamo anche monoreddito, magari facciamo anche dei lavori precari, quindi abbiamo sentito, come tutti e tutte, l'impatto devastante della crisi, e conosciamo molte madri che si sono trovate con dei figli da sole e a non poter contare con un reddito con continuità. Questo significa perdere la casa, ad esempio, se sei una casa in affitto, e cadere in una situazione di profondo disagio. Ma la questione che accomuna, diciamo, anche situazioni, se volete, di particolare disagio, situazioni invece in cui, a seguito ad esempio di una separazione, i due genitori comunque sono presenti, salvo poi gestire, insomma, come dire, la separazione, l'elemento comune è la solitudine, cioè non riuscire a far fatica, insomma, a gestire questa nuova situazione familiare e sentirsi diversi rispetto alle altre tipologie, diciamo, alle altre famiglie, anche se poi basta andare in una classe scolastica e scoprire che si può condividere un'esperienza simile con tutti, però è molto un po' più comune quel pudore a scoprirsi, no? C'è in questo sì, senso, c'è il pudore e c'è anche purtroppo ancora, nonostante sia, come avete detto giustamente voi, un fenomeno in crescita notevole in Italia, questi 4 milioni sono genitori che convivono prevalentemente con i propri figli, e poi appunto per almeno la metà dei casi l'altro genitore è più o meno presente, quindi vuol dire che i numeri aumentano, sono tanti i genitori e ci si sente diversi. Ci si sente diversi, non stavamo gesticolando, lo dico alla Presidente Bassanini, perché chiedevamo l'orario di chiusura di questo blocco prima che ci tranciassero Sfumino. Brutalmente, esatto, ancora abbiamo un paio di minuti di tempo. Allora, prima lei diceva, tante le donne che si rivolgono alla nostra associazione, adesso per fortuna fanno capolino anche gli uomini. Ecco, se dovesse raccontarci un po' la fotografia dell'associazione da questo punto di vista, mamme, papà, quanti e come siete suddivisi? Ma noi siamo un'associazione nuova che, come dicevo, ha poco più di un anno, e siamo una settantina di soci. Una buona parte, diciamo, è milanese o gravita nell'area milanese, abbiamo un grosso un gruppo in aumento a Roma, e poi siamo sparsi un po' in tutta Italia. Ci piacerebbe poter essere più presente nel sud Italia, e questa trasmissione è per noi una grande occasione per arrivare anche alle madri e ai padri soli del sud Italia, e siamo per almeno un 75% tra i soci, siamo donne, con appunto un aumento di padri che non solo si associano ma danno la loro disponibilità, ad esempio nel scrivere pezzi per il nostro blog, nell'inventare situazioni, che è molto progetti. Ben fatto, quindi le volevo anche fare i complimenti. Tra l'altro lei ha parlato, proprio ha definito i membri della vostra comunità soci, perché attraverso una piccola tessera associativa annuale di 15 euro in realtà si può fruire di una tutta una serie di servizi, appunto, che mettete a disposizione. Sì, di servizi che stiamo sviluppando in questo periodo, ma sostanzialmente associandosi a 15 euro si, come dire, sostiene la nostra iniziativa. Noi siamo un'associazione che si autofinanzia, come tutte associazioni no profit, certo. Abbiamo bisogno del sostegno sia attraverso la tessera che attraverso piccole o grandi donazioni. Allora, 800 24 00 24, quali sono le persone che le piacerebbe sentire stamattina, Presidente Bassanini, così invogliamole con un messaggio giusto per poterle fare intervenire in diretta? Mi piacerebbe sentire madri e padri che ce l'hanno fatta, che ce la fanno, come siamo noi, come è il mio caso, nonostante la fatica. Ce la si può fare, i nostri figli non sono diversi dagli altri, dai figli delle altre famiglie, e quindi mi piacerebbe avere storie, come dire, positive, che è l'obiettivo poi della nostra collana. La nostra collana è esattamente questa, dire ce la si può fare. Di cui parliamo subito dopo il giornale radio. Grazie. A tra poco. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Cuore e denari. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Sì, la lepre in tuta rossa, che corse che fa. Lo prendi, papà? Sì. Chissà perché nell'immaginario dei bambini l'animale lo riesce a catturare solo il papà, no? Perché Gisella Bassanini in realtà forse anche una mamma può correre dietro ad una lepre, arrampicarsi su un albero, ad acciuffare uno scoiattolo. Eccoci ritrovati in diretta. Volevi intervenire, tu hai fatto qualche esperienza di questo tipo con le tue figlie? L'animale che sono riuscita a recuperare era il nostro criceto, che è scappato perché le bambine quando erano piccole ce l'avevano sempre lì, tiravano fuori, mentre c'entra, lui è scappato, è stato 3 o 4 giorni in giro per la casa e l'ho visto con fare molto tranquillo che ormai attraversava una camera, allora con con una maglia sono riuscita a atterrare. Me l'hai soffocato, no? No, Puff è stato con noi tanto tempo, però è l'unico animale che ho catturato. Ricordiamo che da oggi e per tutta la settimana Radio 24 è al padiglione Cibus e Italia presso Expo, per cui veniteci a trovare, l'uscita è Rosario, facilissimo, ci individuate immediatamente. Noi siamo partiti stamattina parlando... Vedete una luce e siamo noi. L'aureola. Siamo partiti parlando di adolescenti, siamo arrivati a parlare delle vacanze, di famiglie monogenitoriali, quelle composte da genitori singoli con figli a carico, che sono diventati tali in seguito a le circostanze della vita sempre più diffuse, separazioni, convivenze finite, fuga dal partner, fino anche naturalmente anche la vedovanza, e via elencando. E con noi la fondatrice e presidente dell'associazione Small Families, Gisella Bassanini. Abbiamo invitato gli amici all'ascolto a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci storie di famiglie monogenitoriali che possono dire di aver attraversato un momento difficile della vita facendocela, quindi aver concluso questo momento complicato con successo. La Presidente, appunto, Gisella Bassanini, ha proprio invitato queste mamme o questi papà a raccontarci la loro storia, e quindi continuate a farlo appunto al numero verde. Direi di sentirle subito. Gabriella da Bolzano e Emma da Roma si sono messe all'ascolto, hanno colto al volo l'invito. Emma, benvenuta. Buongiorno, se può essere utile vorrei parlare dell'esperienza che è adesso positiva della mia vita, ma è stata molto dura. Mi sono separata due volte dallo stesso uomo, che a cui voglio anche molto bene, in 20 anni e ho avuto un'adolescenza, dei figli da crescere un po' da sola, non avendo più genitori e avendo avuto amici che mi hanno voltato le spalle, però avevo ho un bellissimo lavoro, sono insegnante, sono anche mediatrice familiare e credo di avercela fatta. Primo, credo che sia molto importante essere allegri, energici, generosi e credere di farcela, ecco, questo è molto importante perché soprattutto d'estate si sente molto la solitudine, i contrasti con i figli, però se i figli sentono che siamo più positivi e energici di loro ce la fanno, certo, a citare nuove situazioni. Emma, quanti anni hanno oggi questi figli? Sono grandi, sono 27, una 34, sono felicissimi. Quello che volevo dire è che ho mantenuto sempre un rapporto di grande rispetto con il padre, facendoglielo vedere sempre, tutti i giorni. Io ho cenato alle 10 di sera per 20 anni per permettere ai miei figli di stare prima di cena dal padre. Certo. Credo che questa esistenza di mediazione, l'odio seminato, non risolve niente, perché certo, gli amori finiscono, ce ne sono tanti nella vita, però la positività, la capacità, il perdono è difficile perché è un dono che ci può arrivare, però la crescita nella vita è complicata. Quando guardo indietro mi sento come una gatta che ha preso per la collotta i figli e l'ha portati nella vita. Che bella immagine, Emma, grazie. Presidente Bassanini, allora le ha apprezzato questa testimonianza. Adesso introdurremo anche il tema vacanze, Emma un pochino ne ha parlato, però effettivamente anche la grande stima che si deve continuare a nutrire con un ex compagno con il quale non si condivide quasi più nulla. In realtà forse questa storia di Emma ci racconta una storia un po' diversa da quelle che rappresentate voi in Small Families, questo papà mi pare di capire che ancora ci fosse, no? Con no, i ma figli. Ma in realtà nella nostra associazione e nei progetti che facciamo, ma anche nei libri appunto che pubblichiamo, è prevista anche questa forma familiare, anzi auspichiamo che ci siano, come dire, a seguito di una separazione, dei rapporti di rispetto reciproco. Noi stiamo distanti da tutti i tentativi di conflittualità che altre associazioni ad esempio tendono a ricercare tra appunto genitori separati, e noi invece, come dire, sosteniamo invece, come dire, la necessità di avere dei rapporti se non altro civili, perché abbiamo deciso di mettere al centro della nostra attività i figli, cioè i figli, i nostri figli, che siano appunto figli di genitori vedovi, unici, separati, divorziati. I figli si allevano, i figli con amore, devono essere al centro di ogni attività. Le beghe poi tra i genitori, certo, tra gli adulti, come dire, sono secondarie, e su questo noi lavoriamo, cioè affinché le opportunità che hanno i nostri figli siano le stesse, certo, le opportunità che hanno, certo, i figli delle altre famiglie o della famiglia tradizionale, che pur rimane ed è ancora una presenza importante nel nostro paese. Presidente Bassanini, in vacanza con mamma o papà, come si trascorrono le vacanze nelle famiglie scomposte o ricomposte? Perché appunto sotto la definizione di small families so che voi ne avete date molte, no, di definizioni, sì, famiglie, sì, in trasformazione, famiglie scomposte, composte. Intanto qual è quella che le piace di più, quella che italianizzandola appunto la rappresenta meglio? Beh, noi abbiamo un po' inventato anche questo slogan, che è famiglia geometria variabile. Noi rappresentiamo proprio queste varie taglie di famiglie, che è anche ad esempio un single che ha in affido un minore, ad esempio per noi è small family, che è anche un nonno o una nonna che per varie vicende vive coi propri nipoti, esatto, no? Perché ad esempio i genitori per mille motivi sono allontanati, ad esempio sono detenuti, oppure sono, pensiamo alle comunità straniere, spesso i minori anche a Milano, in Italia, vivono coi nonni perché i genitori sono ad esempio rimasti nel paese d'origine. Esatto. A noi interessa là dove c'è un uno più, anziché un due più, per usare appunto la formula che usano gli alberghi e le strutture alberghiere, e qui andiamo a bomba ad uno dei veri problemi che noi abbiamo in Italia, cioè gli sconti famiglia prevedono la presenza di due adulti paganti, certo, e salvo rarissime eccezioni i nostri figli pagano come dire una stanza d'albergo o un posto a un villaggio. Quindi, come un adulto. Tra l'altro, proprio per riportare anche la nostra chiacchierata sul terreno dei denari, che dovrebbe essere il tema che approfondiamo anche in questa parte, questa per esempio è una delle vostre battaglie. Esatto. Sul terreno pratico e concreto. Questa, no? È una delle nostre battaglie. Proprio settimana scorsa noi abbiamo lanciato un questionario, Vacanze in quale famiglia, un questionario online a cui si può accedere attraverso il nostro sito. È un questionario anonimo, ci vuole 5 minuti a compilarlo. Anonimo no, hanno già risposto in migliaia, da quello che so, Sì, adesso abbiamo elaborato i primi 200, e su questo abbiamo comunque fatto un sarebbe molto bello, perché vorrebbe dire essere veramente ascoltati e seguiti tantissimo. No, però ai 70 soci, il passaparola sul questionario. Il primo questionario che abbiamo fatto nel 2013, che aveva come titolo Di che taglia è la tua small family, ha ricevuto 600 questionari nel giro di 3 mesi e li abbiamo tutti elaborati. Io sono una ricercatrice di mestiere, con l'aiuto di un sociologo, di un giovane sociologo che ci aiuta, abbiamo proprio elaborato questi questionari. Lo stesso abbiamo fatto con i primi 200 che ci sono arrivati. Il questionario però online è ancora aperto. E dicevo appunto che mi sono poi accorta che un sito francese che si chiama Parensolo, quindi diciamo il nostro omologo, anche se è nato qualche anno prima di noi, ha lanciato proprio un sondaggio sulle vacanze e le prime, come dire, i risultati non sono diversi dai nostri, nel senso che proprio la necessità di avere sconti, appunto questo 1+, che in Italia, salvo rarissime eccezioni, appunto in genere non c'è neanche a Milano, non c'è un albergo che noi almeno sappiamo, anzi se ci fosse qualcuno dovreste ce lo segnala, da una catena sarebbe bellissimo poter dire a Milano essere carino, sarebbe e Parensolo ad esempio, e lo dico, lo cito nel post che ho scritto a riguardo di questo questionario, ha mappato diciamo 600 proposte per small families francesi, per pochi giorni o per vacanze dal weekend alle vacanze brevi, che sono appunto strutture, alberghi, case che fanno sconti per famiglie monogenitoriali. Uno più. Chissà quando noi arriveremo a questa situazione. Quindi da una parte lo sconto, e questa cosa è un grosso problema, perché lo dicono anche i dati del nostro questionario, una fetta considerevole di genitori non va in vacanza perché non può permetterselo. Uno dice vabbè, anche le famiglie tradizionali, molte purtroppo non vanno in vacanza. Nel nostro caso il problema appunto è che se sei monoreddito oppure c'è l'altro genitore ma ha perso il lavoro, non ti può passare l'assegno di mantenimento anche se vorrebbe, insomma ci sono delle situazioni di fragilità economica che fanno sì che una fetta considerevole, anche in Francia dice il sondaggio francese, non va in vacanza, ma potrebbe andare qualche giorno se solo avesse degli sconti, delle agevolazioni come le altre famiglie. Adesso, prima di sentire Gabriella da Bolzano, Francesca da Varese, vorremmo leggere anche la testimonianza di Laura, che ci sta scrivendo sia all'SMS, ma per farsi proprio comprendere con forza ci ha proposto il suo messaggio anche su Facebook, e vorrei conoscere qualcosa in più in dettaglio dei racconti che avete raccolto per Small Holidays e Vacanze in Famiglia a Geometria Variabile. Chi ha scritto per voi, Gisella? Intanto, e che cosa hanno raccontato? Sì, intanto bisogna dire che questo progetto è una collana, si chiama Small Books, il primo era appunto dedicato al Natale, Small Christmas, e questo secondo volume è curato da Laura Lombardi, che è peraltro anche vicepresidente dell'associazione Small Family, e da Rezia Corsini, che è una giornalista, grazie a una collaborazione con la casa editrice Cinque Sensi, in particolare con Sara Vitali. Cosa succede? Succede che noi stiamo lavorando anche per avviare progetti di questo tipo, lo stiamo facendo con la Scuola del Cinema di Milano e con Maurizio Nichetti, lo stiamo facendo con un noto studio di avvocati, un studio legale che si chiama La Scala. Quindi stiamo cercando come associazione di trovare realtà anche private, non solo del terzo settore e non solo pubbliche, che però sappiamo essere in sofferenza in questo momento, con cui lanciare dei progetti. Small Books ha questo obiettivo, cioè con questa casa editrice, sull'idea di Laura Lombardi e di Rezia Corsini, L'idea è: facciamo dei libri che raccontano delle storie vere, scritte in prima persona, da personaggi noti e da personaggi non noti, molti sono, siamo noi, molti sono i nostri figli, ad esempio, che decidono di sostenere questa iniziativa. E quindi, come vedete, in Small Holidays sono 29 racconti più uno, perché uno è una raccolta di piccole frasi di bambini, sono quasi tutti delle elementari, che abbiamo raccolto da fra di noi, da amiche o amici insegnanti, e ci sono appunto, come dicevate voi, nomi note come Diego Abatantuono, come Felicità Chiambretti, che è la madre di Piero Chiambretti ha scritto anche nel volume sul Natale, e Felicità Chiambretti, che è una poetessa, è anche la nostra socia, è una socia onoraria, il padre di Valentino Rossi, quindi vedete, insomma, giornalisti come Boriosi, insomma ci sono diverse storie e persone, appunto, come dicevo, meno note. Diverse storie, perché sono storie di separati, storie di genitori unici, storie di famiglie che si sono ricostituite, no? Ah, nel senso che appunto, come quella dell'ascoltatrice che ha provato un paio di volte. Esatto, si sono ricomposte e raccontano gioie e dolori, a volte anche con profonda sofferenza, è innegabile, altre volte invece con allegria e gioia, le proprie vacanze. Laura al telefono, 6 anni. Ciao mamma, visto che non ci vediamo volevo dirti di non farti venire le nervosie. Oggi ho messo i braccioli e sono stata brava. Martina, 9 anni. Quando vado in giro con papà è tutto a sorpresa e certe volte mi piace. Con mamma le cose si sanno e devo fare i compiti anche in spiaggia. Dario, di 8 anni. Io voglio fare i viaggi nel mondo con la mia mamma, che invece sta sempre a casa, ma non voglio andare in Cina perché i cinesi sono cattivi e vogliono comprare tutto. Queste sono alcune delle testimonianze, la parte più uno del libro Small Holidays, vacanze in famiglia, geometria variabile. Per chi lo volesse leggere, peraltro, Gisella, può andare sul vostro sito. Sì, può andare nel sito della casa editrice Cinque Sensi, può richiederlo in tutte le librerie se non ce l'hanno, perché abbiamo una distribuzione nazionale. Se non ce l'hanno lo chiedono. Questo libro, che costa 10 euro, una parte, tolte le spese di distribuzione, i proventi vanno a sostegno dell'associazione e in particolare a quelle attività che facciamo noi di Sportello Online a sostegno dei padri e delle madri soli, che aiutiamo per accedere ai servizi, che aiutiamo dando la consulenza fiscale, legale. Abbiamo legale, esatto. Psicologica e soprattutto quella che ci chiedono. Siamo collegati con un'associazione che si chiama Filo e con loro sempre più stiamo sviluppando dei progetti. Loro hanno creato questo sportello per madri e padri soli, ci sono sia a Roma che a Milano, e quindi, come dire, stiamo costruendo proprio anche delle alleanze in modo tale che i genitori soli non si sentano soli. Ci serve il punto d'appoggio nel meridione d'Italia, speriamo che oggi nel qualche mamma qualche papà si candidi, e poi qualche imprenditore nell'area alberghiera illuminato che abbia voglia di capire che qui c'è mercato, perché la vera questione, esatto, è che qui c'è una un mercato. Vogliamo. Benissimo. Allora, intanto Gabriella da Bolzano, povera, che ci sta aspettando da un po'. Gabriella, benvenuta. Buongiorno. Niente, io volevo raccontare la mia esperienza. Io ho 51 anni e insomma la mia separazione risale ormai a 8 anni fa. I miei figli, allora, uno 4 anni e l'altra 13, impegna fase adolescenziale. È stata una separazione abbastanza sofferta da una parte, un po' più semplice dall'altra, perché il padre era assente pur essendo in casa anche quando, insomma, conviveva con noi. Io lavoro in proprio, per cui non godevo neanche della libertà che magari ha qualche dipendente, di godere dei giorni quando sono ammalati, Gabriele, immaginiamo con lavoro autonomo, la libera professione, insomma. Salti mortali che triplicano rispetto ad ostacoli, solo dedicandomi ogni tanto a visite, fra udienze, cose del genere. Ecco, io avevo un vantaggio secondo me molto importante: io economicamente ero indipendente sin dall'inizio e non ho dovuto accettare compromessi né da una parte né dall'altra, e ho potuto anche avvalermi dell'aiuto di persone che pagavano naturalmente perché mi potessero dare una mano. Devo dire, insomma, i salti mortali li sto facendo un po' ancora, sono molto contenta, i miei figli li vedo contenti, abbiamo passato, e ogni tanto si ripropongono dei momenti un pochino più difficili, il padre è comunque sempre assente, nel senso che c'è, ma non ho mai potuto. Noi abbiamo un rapporto che è civile, che non è un rapporto né di stima, però è un rapporto civile. I figli sono sempre stati messi da me al primo posto, per cui da quel punto di vista ho accettato tutti i tipi di comportamenti, tutte le scelte sue di vederli solo pochissimo, pur spingendoli io verso il padre, insomma, era lui che sceglieva di vederli meno, Comunque Gabriella, la sintesi è: lei, ecco, sente di avercela fatta, oggi è una donna serena, orgogliosa di aver concluso, diciamolo un po' così brutalmente, con successo un percorso complicato, ed è certamente, Gabriella, in ottima compagnia con tante altre persone che possono dire lo stesso. Grazie, sentirei anche Francesca da Varese. Francesca, buongiorno. E anch'io sento di avercela fatta sicuramente, soprattutto dopo che la mia unica figlia, 23enne, si è laureata lo scorso settembre a Milano con 110 lode e ora vive a Shanghai, no? Perché, sì. Perché appunto io l'ho fatto per lei, il fatto di azzerare completamente quella che era una vita che non potevamo continuare e ricominciare da capo, non c'erano di mezzo terze o quarte persone, ma era proprio l'impossibilità di vivere con quella persona che era appunto il padre di mia figlia. Francesca, chiaro, complimenti per sua... Sì, velocemente, perché stiamo chiudendo, anche se mi spiace moltissimo, perché vi darei tutto lo spazio possibile. Non è facile, credo che appunto, come ha detto già la signora, la possibilità di avere di realizzare la propria autonomia economica sia fondamentale per una donna per poter ricominciare, ed è stato anche il mio caso. Tutto qua, auguri a tutte, abbiate coraggio. Grazie. Grazie. Chiuderei anche invece con la testimonianza di Laura da Facebook, che parla da figlia e dice: posso dirvi che mia mamma è una di quelle che ce l'ha fatta, nonostante durante la mia adolescenza mio padre non poteva sostenerci. Mia nonna si è ammalata, nonostante le difficoltà economiche nell'affrontare una malattia e una badante, insieme sostenendoci in l'altra ce l'abbiamo fatta. Ebbene, le lascio 30 secondi di tempo, Gisella Bassanini, per concludere questa trasmissione con un messaggio a chi ci ascolta, sì, e magari non vi conosce ma vi cerca. Ecco, il messaggio è di andare appunto nel nostro sito, che è www.smallfamilies.it, anche la nostra pagina Facebook, e di aiutarci a sollecitare le istituzioni e anche la società affinché si cominci a parlare di questo fenomeno e si possano individuare interventi e politiche adeguate, soprattutto per quei genitori, padri e madri, che sono in difficoltà. C'è tutto il mondo del credito, peraltro, da esplorare, ovviamente il tema fiscale, il tema della conciliazione famiglia e lavoro, certo, che non affronta mai il tema del genitore solo, ma esatto, sempre la condivisione, esatto, all'interno della coppia. L'abbiamo visto anche in questi giorni, che un nuovo pacchetto parla appunto di congedi, mamme, papà, ma mai di monogenitorialità. Ottimo, i messaggi noi li abbiamo fatti passare, Nicoletta, e adesso torniamo chiudere, domani torniamo domani sempre da questo padiglione, non mancate, buona giornata a tutti. Grazie.